Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Siamo ancora immersi nel cinema post-elettorale che oggi si compone di un movimento 5 Stelle nel quale scoppia la guerra per bande, stando alle parole del presidente della Camera Fico, che tra l'altro oggi sarà nostro ospite, di una Lega che vara una segreteria di partito per una gestione più collegiale, di un PD in attesa. Diciamocelo, ci sono cose più importanti, delle quali la prima è senza dubbio la proposta della Commissione europea sulle nuove regole in tema di immigrazione, proposta che molti, soprattutto da paesi come il nostro, di primo approdo giudicano debole e insufficiente. Roma preme per regole più stringenti sulla redistribuzione. Ci sono cose più importanti come la nuova avanzata della pandemia in paesi come la Francia, dove da ieri sono in vigore regole più dure, la Gran Bretagna costretta anch'essa ad una stretta che arriva anche a Genova, dove è obbligatorio adesso girare in centro storico con la mascherina, alla Spezia dove viene ritardata l'apertura delle scuole. Il tutto mentre in Italia, non con grande tempismo, a dire il vero, si torna a ragionare di riapertura degli stadi. Ci sono cose più importanti come la terza minaccia in pochi mesi arrivata al presidente di un'associazione territoriale di Confindustria. Si tratta di Pasini, il presidente dei Bresciani, un elemento preoccupante ma che sembra uscire quasi completamente dal dibattito pubblico. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Le 6:32 minuti e 37 secondi di giovedì 24 settembre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno. Eccoci qua con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp, WhatsApp audio, tutto quello che volete. Come vi dicevo, poi alle 8:35 parleremo col presidente della Camera, Roberto Fico, ragioneremo un po' intorno a quello che succede dopo il referendum. Le famose riforme, è arrivato il momento delle riforme, l'ennesimo momento delle riforme, e ragioneremo con lui ovviamente anche di quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle e parleremo anche di quella che è sicuramente la notizia del giorno, almeno della giornata di ieri, che è questa proposta della Commissione europea per la redistribuzione dei migranti, che sicuramente non dà soddisfazione all'Italia e, diciamocelo, non corrisponde nemmeno a quello che ha detto Ursula von der Leyen, che ha detto supereremo gli accordi di Dublino. Quali sono gli accordi di Dublino? Lo ricorderete, ne abbiamo parlato molte volte, sono quegli accordi che prevedono che tutta la parte che ha a che fare con l'esame della richiesta di asilo avvenga nel paese di primo approdo dei migranti. Questo fa sì che ovviamente nei paesi di primo approdo si crei una sorta di imbuto, una sorta di strozzatura, e il tema della redistribuzione finisce per essere su base volontaria, con qualche penalizzazione per chi non accetta, e quindi molto diverso da come si prospettava, dalla grande svolta che si prospettava. La voce di von der Leyen, sentiamo, va. We know that we have to build trust among member states and citizens' confidence that we can manage this as a union. Possiamo gestirla come unione, dobbiamo ricostruire la fiducia, dice von der Leyen, ma appunto la proposta appare debole. Certo, in questi casi, come ben sapete, è una questione di singoli stati, sono questioni che sì, magari la Commissione europea ci può mettere un'idea, può mettere una proposta, però poi alla fine chi decide sono i singoli stati, chi fa pressione sono i singoli stati, e qua la contrarietà dei paesi dell'Est Europa, la contrarietà dell'Austria ovviamente gioca un ruolo, non diciamo nulla di nuovo su questo. E però l'idea di un rinnovamento promesso un po' più forte ce l'eravamo fatta. Francesca Sforza della Stampa, ciao, buongiorno, che ne dici? Che ciao, ne dici? Buongiorno, sì, ce l'eravamo fatta, però credo che in questo caso potevamo anche noi fare qualcosa di più, perché hai ragione, proprio perché siccome è richiesto il voto degli stati e quindi diciamo un'alleanza, ecco, questa alleanza va costruita, perché non si può pensare che si crei un'unanimità o un vasto consenso su un tema su cui il consenso non c'è mai stato. Allora, questo ci dice, quando si arriva a queste decisioni dobbiamo guardare anche su quello che si è fatto, quanto abbiamo lavorato su questa cosa, perché si è parlato molto di migranti qui in Italia, ma la mia impressione è che si è parlato molto ma si è fatto poco nelle sedi giuste. E questo è il risultato. Cioè ci siamo mossi male in Europa, male con le altre cancellerie, dici questo? Certo, bisogna fare operazioni di dissuasion, di convincimento, bisogna spiegare, bisogna agire, bisogna fare politica, bisogna fare diplomazia. Allora, quando invece il discorso sui migranti copre la tribuna politica così con i toni che sappiamo, ma non fa seguito poi a questi toni nessun tipo di azione coerente, ecco, così va a finire. Sì, e tra l'altro leggiamo da un po' di retroscena che ci sono, che in questo momento l'Italia sta abbassando la testa, chinando un po' la testa su questo fronte, un po' presumibilmente, Francesca, per i motivi che dicevi tu, e dall'altra parte perché ci sono in ballo i soldi del Recovery Fund, la partita che il nostro paese considera fondamentale al momento è quella e non tanto la questione dei migranti. Scrive un ascoltatore al 349-238-6666: non si rivede il principio di paese di primo ingresso, non si obbliga al ricollocamento, non sono previste sanzioni. Il riassunto mi sembra perfetto, è esattamente questo il problema, è esattamente la cosa sulla quale i paesi del sud Europa premevano. Le immagini che abbiamo visto da Lesbo ci avevano fatto pensare che su questo ci si potesse muovere. Ieri la Francia, per esempio, ha annunciato il fatto che accoglierà 500 minori provenienti da Lesbo. Francia che tra l'altro non è soddisfatta di questo accordo. Detto ciò, Francia che, come altri paesi, è alle prese con quella che alcuni considerano già la seconda ondata, perché il numero di contagi si sta ampliando oltre Alpe. Si sta ampliando in Gran Bretagna. Qualche segnale, devo dirvi la verità, non è per fare il menagramo, però lo stiamo ricevendo anche dall'Italia. Come vi dicevo, a Genova scatta per esempio la mascherina in centro, obbligatoria, perché ci sono dei casi che non si sa bene da dove provengano e dei cluster che non si riescono ad identificare. Viene ritardata l'apertura delle scuole alla Spezia, forse là la contiguità geografica con la Francia può darsi che abbia pesato, è presumibile. E però un po' di attenzione bisogna mettercela. Sul tema del tracciamento, del controllo, dei tamponi, il ministro Speranza. Un tema che è assolutamente strategico per affrontare i prossimi mesi. Ad oggi a livello globale tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard, quindi come modello fondamentale, essenziale, il tampone molecolare classico. Noi abbiamo settimana dopo settimana rafforzato le capacità italiane di testare attraverso questi tamponi e siamo arrivati ormai da qualche settimana alla potenzialità di oltre 100.000 tamponi al giorno, che è un numero significativo. Prevediamo ancora di aumentare questo numero nelle prossime settimane. E questo è importante perché ti consente di vedere come vanno i casi singolarmente. È un po' surreale, Francesca, che in questo quadro, ti faccio sentire due voci e poi ne parliamo un attimo, si sentano alcuni ministri, viceministri, parlare di stadi da riaprire, devo essere franco, l'abbiamo posta la domanda ai nostri ascoltatori nelle settimane scorse quando le cose sembravano più tranquille, però adesso il tempismo non mi sembra quello giusto, spada fora. Ieri in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze anche delle altre discipline, non solo del calcio, abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato domani all'unanimità da tutti i presidenti delle regioni e quindi poi sottoposto venerdì al comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali alle serie minori. Oh, lo dico all'amico che scrive: concedimi un minimo di conoscenza geografica del paese. Lo so che la Spezia non è contigua alla Francia, dico che la Liguria è contigua alla Francia e quindi può darsi che ci sia un elemento di questo tipo, può darsi, però non lo so in tutta sincerità, Il vice ministro della salute Sileri, quando hai mantenuto una distanza tra le persone, sì, meno un metro, sì, diciamo anche due metri perché sì, rischi voce e certo, rischi maggior urla, contagio, sì, con delle regole precise, secondo me a 20.000 puoi arrivare. Anche 25, perché se il 30%... Anche 25, sì, sì. 25.000 persone allo stadio. Bah, in questa situazione, Francesca, mi sembra un dibattito un po' surreale, dei ragionamenti un po' surreali questi sugli stadi, non so come la vedi. Sì, ti confesso anch'io, mi rendo conto che lo sport, gli stadi, ma anche lo spettacolo, il cinema sono forse proprio gli ambienti più penalizzati in assoluto, però noi abbiamo, non possiamo dimenticarlo, abbiamo le scuole, cioè le scuole sono già una grossa fatica, no? Proprio quotidiana per il controllo di eventuali contagi e della diffusione del virus. Allora sulle scuole non si può transigere, è evidente che rendo conto che appunto tanti anche ci vivono, però come dicevi stavamo andando un pochino meglio perché siamo stati abbastanza attenti al rispetto delle regole fino adesso. Pure io sì, trovo che lo sport sia molto, molto rischioso. Sì, devo dirti, ripeto, sempre per non fare, non voglio passare per menagramo, per pessimista, però a me tutti questi articoli, quello del Financial Times, del quale tutti stanno parlando, che celebra l'Italia, sì, per le sue grandi capacità, ne è uscito, se non sbaglio, ieri un altro di Foreign Policy, che ugualmente racconta quanto siamo stati bravi, mi mettono una paura terribile, perché mi ricordo quando parlavamo pochi mesi fa del modello israeliano, te lo ricordi, Francesca? Ne parlavamo, il modello israeliano, ah, una meraviglia, e adesso altre tre settimane di lockdown. Quindi stiamoci attenti su questo. Cos'altro da sentire un po' di politica? Facciamo così, va, sentiamocela. Direi Salvini, se abbiamo l'audio di Salvini sulla nuova segreteria, molto si è discusso delle tensioni interne alla Lega, di quello che sta succedendo dopo l'esito elettorale, di questo 7-0 annunciato e non arrivato, perché alla fine terminerà con un 4-3 dall'altra parte, e di un Salvini un po' alle strette, perché ha fatto delle scelte da solo e alcuni gli dicono all'interno: dovevi prendere delle decisioni diverse, candidature diverse, la Ceccardi era sbagliata in Toscana, qualcuno gli ha detto, devi prendere una candidata un po' più, o un candidato un po' più verso il centro, che attraesse, potesse attrarre, no, quel mondo di centro-sinistra. Non solo questo gli viene imputato, è una strategia troppo solitaria. Dunque ieri ha annunciato a porta, ha detto, parte una gestione almeno teoricamente più collegiale, la nuova segreteria. Sentiamolo, va. Io più delego, più sono contento, è un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise e quindi abbiamo creato dei dipartimenti, lo dico anche a chi è a casa, quindi non c'è Salvini, c'è Salvini che fa parte di una squadra con centinaia di brave persone. E quindi si crea questa segreteria e vedremo come andrà. Cosa ancora sulla politica? ci sono tutte le tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle, delle quali poi parleremo più avanti. Tutti i giornali parlano di un movimento spaccato, diviso, pieno di problemi, dubbi sulla leadership. Nel frattempo non fa mancare la sua voce il fondatore, che dice una cosa decisamente discutibile. Sentiamola. Non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare, di che qualcuno mi possa rappresentare, ma credo nella democrazia diretta, direttamente fatta dai cittadini attraverso il referendum. E certo, aboliamo il Parlamento, va. Traffico. Quattro mattino. Ormai è così, Liliana Faccioli Pintozzi, corrispondente di Sky TG24 dalla Gran Bretagna. Ormai è così, Liliana, sei segnata. Buongiorno. E sarà introdotta questa canzone sempre, sempre. Cara Liliana, ti abbiamo chiamato perché la Gran Bretagna è un caso, sulla vicenda Covid, sulle nuove regole che vengono varate, sulla nuova stretta, sui casi in crescita e soprattutto sull'atteggiamento assai ondivago del premier Boris Johnson, Liliana? È un po' un caso e lo sarà ancora di più oggi, perché poi oggi tornano in campo nuove misure economiche, perché l'economia va male ovviamente, e queste nuove misure, se davvero dureranno 6 mesi come ha detto il governo, insomma vorrà dire che per un intero anno, perché il lockdown era stato annunciato il 23 marzo scorso, 6 mesi da oggi si arriva a marzo 21, un intero anno di restrizioni. Ovviamente vi potete immaginare, no, Simone, le reazioni delle associazioni di categoria in questi giorni sono state terribili, perché non ce la si fa. Allora, proprio oggi lo scacchiere annuncerà un pacchetto da miliardi di pound per sostenere soprattutto i posti di lavoro, perché il timore è che appena finirà la cassa integrazione a fine ottobre almeno in 3 milioni vengano licenziati, e non ce lo si può permettere. Nel frattempo, come dicevi tu, continuano a salire i casi. Ieri abbiamo addirittura superato quota 6.000 al giorno, fa più 25% nel giro di 24 ore, per dare una misura. È vero che vengono fatti tantissimi tamponi, più di 200.000 al giorno, quindi sì, veramente un grande sforzo, però è anche il doppio di quelli che vengono fatti in Italia. Poi anche il qua doppio dell'Italia, però in Italia non c'è quest'urlo di dolore, non si dice non ci sono tamponi, qua tutti ripetono non riusciamo a fare i tamponi. Evidentemente c'è una domanda così alta che 200.000 è come se fosse, non so, 30.000 da noi. Sì, ne sono stati fatti complessivamente 19 milioni di tamponi, I numeri aggiornati a ieri, sì, sono questi. Gran Bretagna conta quasi 42.000 morti considerate da Covid, appunto. La nuova stretta cosa riguarda, Liliana? Le nuove misure riguardano fondamentalmente il settore di pub, ristoranti e bar, che da oggi devono chiudere alle 22. È una stretta soprattutto per i ristoranti, perché i pub in realtà chiudono un'ora prima, ecco, devono anticipare di un'ora la chiusura. Poi un'inversione a U importante, quando dicevi Johnson ondivago. Fino a poco tempo fa il governo ci chiedeva di tornare a lavorare dal posto di lavoro, tornare in azienda, tornare in ufficio, per far riprendere anche il tessuto sociale delle città. Dall'altro ieri, di nuovo si chiede di andare in smart working, di rimanere a casa il più possibile. Chiunque possa deve rimanere a casa. Nuove misure per i matrimoni, ad esempio, massimo 15 invitati, prima erano 30. Sì. È un paese, ecco, questo è forse è importante sottolineare rispetto all'Italia, è un paese che è entrato dopo in lockdown, l'abbiamo raccontato, non quelle famose 22 settimane, due settimane dopo, ma in realtà la normalità qui non è mai tornata, neanche la nuova normalità di cui si parla in Italia. Sì. Qui ci sono ancora tante restrizioni e ora ancora di più. Sì, è interessante in questa chiave quello che ha detto Johnson l'altro giorno, Peter Bescapè. Facciamo sentire questo passaggio del premier britannico. And actually, there is an important difference between our country and many other countries around the world, and that is our country is a freedom-loving country. C'è una grande differenza tra noi e altri paesi del mondo in riferimento un po' all'Italia anche. No, siamo... rispondeva proprio all'Italia, gli avevano chiesto perché l'Italia e la Germania sono così più bravi, tanto più bravi di noi, e lui ha risposto così. Perché noi amiamo perché noi amiamo la libertà, è quasi incredibile. Ma non rispettano le regole, sì. E questa è la cosa drammatica. Gli inglesi che non rispettano le regole, non avremmo mai pensato di dover dire una roba del genere. No, invece è così, non hanno rispettato, non sono in grado di rispettare le regole minime, se sì. Non c'è il rischio che il governo gli metta £200 di multa perché non indossa la mascherina. È quello la cosa, no? Lo scrive bene oggi Massimo Gramellini nel suo caffè di questa mattina sul Corriere della Sera, no? Fatemi capire, il paese che ha inventato la coda, i prati a moquette, l'esercito moderno non sarebbe capace di obbedire in modo uniforme, e la disciplina di gruppo, che avrei giurato essere la specialità della casa, apparterebbe invece agli italiani, cioè a un popolo che gode fama meritatissima di disprezzo per regole e individualismo spacciato per anarchia. Che devi dire a Gramellini? Poi c'è un po' un minimo di soddisfazione in questo periodo nel prendersela con Johnson, anche proprio per come è stato un divago nella gestione del Covid, a partire da tutta quella storia dell'immunità di gregge, Liliana, della quale abbiamo parlato lungamente, e che poi è una strategia che non è mai stata messa in atto in realtà. Sì, no, non è stata mai messa in atto. Cioè, il governo sbaglia sicuramente tanto, nessun governo è stato perfetto in questi mesi, ed è comprensibile vista la situazione. Certamente Simone, cioè, e Johnson lo sa benissimo, i suoi giorni stanno diventando un po' contati, è arrivato veramente al momento della verità, non soltanto per il paese contro il Covid, ma anche per lui al governo, perché nel Partito Conservatore è in crescita una sorta di ribellione nei suoi confronti, e sappiamo quanto i conservatori siano bravi a pugnalare i loro primi ministri, soprattutto quelli molto amati. E c'è chi dice che i 6 mesi delle misure siano anche i 6 mesi di Johnson, c'è chi dice gli facciamo fare la Brexit, facciamo chiudere questa cosa, usciamo anche da mercato interno e unione doganale e poi cambiamo primo ministro. Insomma, non è lui è ondivago e la barca è in mari molto perigliosi. Vedremo sì. Se sopravviverà sia lui, e vedremo come ne uscirà il paese soprattutto. Sì, a chiudere, se abbiamo ancora Francesca Sforza, 30 secondi. In realtà quello che preoccupa più noi mi pare che sia la Francia, al momento, ovviamente, proprio per la vicinanza territoriale. Sì, la Francia, anche perché... bisogna dire che sono stati già messi dei tamponi obbligatori per, come lo ricordavi all'inizio della trasmissione, con la Francia. Certo, la Francia è una miccia per noi, e io temo che, ecco, non bisogna seguire l'esempio francese, così tantomeno quello inglese, cioè non bisogna mollare. In fondo l'Italia sta tenendo perché in fondo non ha mollato sulla memoria di quello che è stato quel durissimo lockdown. Sì. Ecco, non ce lo dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo dimenticarci quanto è stato orrendo restare chiusi in casa tutto quel tempo. Se non vogliamo pensare, esatto, ai morti, se non vogliamo pensare a tutto questo, non pensiamoci, ma cerchiamo di ricordarci quanto è stato orrendo stare chiusi in casa tutto quel tempo. Grazie Eliana Faccioli Pintozzi, corrispondente di Sky G24 da Londra. Grazie a Francesca Sforza della Stampa. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.